Sudafrica 2010, i mondiali in diretta. Buongiorno da Johannesburg e da Dario Ricci. Uruguay, Corea del Sud e Argentina, Messico, questi i primi due ottavi di finale di Sudafrica 2010. Nel gruppo A, Rustenburg, Uruguay e Messico, pur qualificate entrambe con un pari, giocano una partita vera. Vincono gli uruguagi per 1-0 con gol di Suarez, ma i messicani si qualificano come secondi per la miglior differenza reti nei confronti del Sudafrica, che batte la derelitta Francia per 2-1. Reti di Kumalo e Nfela per i Bafana Bafana, Malouda per i transalpini. Sentiamo Fernando Muslera, portiere dell'Uruguay e della Lazio, ancora imbattuto dopo tre gare. Non so se siamo una sorpresa, sì crediamo in noi. Sappiamo che abbiamo una grande squadra per fare una gran competenza e si sta vedendo. Stare tre partite in un mondiale senza gol, senza ricevere nessun gol, è una cosa troppo importante. Vabbè, uno lo prende tranquillo per avere fiducia e continuare nella stessa strada. Ecco, un Uruguay che riesce a mettere in campo i suoi tre gioielli, Suarez, Forlan e Cavani, e mantenere l'equilibrio. C'è anche la mano di Tabárez, no? In questa grande squadra. Certo, cioè, noi per la qualità del giocatore che abbiamo possiamo giocare in diverse forme, cioè, abbiamo dimostrato di giocare con due punte, con tre punte, abbiamo dei giocatori di caratteristiche importanti e anche Tabárez su questa cosa sa farle bene. Ma vi aspettavate di poter vincere addirittura questo che era uno dei gironi più equilibrati? Ovviamente uno viene sempre con fiducia, noi sapevamo che era un girone difficile, molto, molto competitivo, però come noi siamo una squadra competitiva avevamo quella fiducia di poter passare a primi o secondi. Sempre più convincente anche Edinson Cavani, attaccante del Palermo. Io credo che le mie caratteristiche sono queste, in tutte le squadre che ho giocato sempre ho difeso tanto e quindi diciamo che farlo nella nazionale è una cosa ancora più bella, quindi no, io credo che ci siamo con i compagni complementando molto bene, quindi nel momento di difendere difendiamo bene, ci chiudiamo bene dietro e nel momento di ripartire ripartiamo con grande forza. Io credo che questa è stata la qualità di questa nazionale. Hai convinto Tabárez, no? Che nella prima gara ti aveva lasciato in panchina con la Francia. Credi che questo modulo sia quello che potete riproporre anche nelle gare a eliminazione diretta? Io credo che questo modulo oggi sta dando i suoi risultati, quindi io credo che qualcosa ha cambiato, perché da una partita all'altra è cambiato il risultato e dopo alla fine abbiamo vinto una partita molto difficile, quindi qualcosa ha cambiato. Io penso che dobbiamo continuare a lavorare e speriamo che possa il mister continuare a giocare così come sta, con questo modo. Rimani al Palermo? Certo, a me ancora non mi è arrivato niente, quindi io sono il Palermo e la società è quella che decide, quindi io solo aspetto e sto qua facendo quello che devo fare, che la nazionale, dopo io il mio ritorno a Palermo lo sto pensando ancora. Nel gruppo B l'Argentina di Maradona liquida 2-0 la Grecia con reti di De Michelis e Palermo e chiude a punteggio pieno. Al secondo posto la Corea del Sud, che pareggia 2-2 con la Nigeria, ennesima africana eliminata. Oggi chiusura per i gruppi C e D. Per il primo alle 16 in campo Slovenia, quota 4 punti contro Inghilterra a 2 e Stati Uniti a 2 punti contro Algeria, 1 punto. You know, we shouldn't be looking at excuses or criticizing the manager. You know, he takes a lot of responsibility being England manager. Non è vero che ci sono contrasti tra la squadra e l'allenatore, non cerchiamo scuse, tuona il capitano dei Leoni d'Inghilterra John Terry a difesa del CT, Fabio Capello. Alle 20:30 tocca al gruppo D, con Australia a 1 punto contro la Serbia a 3 e Germania quota 3 contro il Ghana capolista a 4 punti. E oggi vigilia azzurra della decisiva sfida con la Slovacchia, clima surriscaldato dall'ennesima polemica a distanza dopo le allusioni del leader della Lega Nord Umberto Bossi su una possibile combina a favore dell'Italia. Provando a restare sul campo sentiamo uno dei senatori, il milanista Zambrotta. A livello personale paura non c'è, anzi c'è molta fiducia, sono molto fiducioso, credo che comunque all'interno della squadra, dei compagni, ci sia molta fiducia nel passare il turno, noi ci crediamo, per il fatto comunque che ci siano sicuramente dei giocatori giovani e dei giocatori esperti, sicuramente magari noi a livello internazionale con più esperienza cercheremo di dare una mano ai più giovani, però credo comunque ci sia il giusto mix. Mentre Lippi pensa a una rivoluzione tattica con l'impiego di Gattuso e il tridente offensivo, il napoletano Cristian Maggio già immagina il duello col compagno di squadra Marek Hamsik. No, non l'ho sentito, ma sicuramente gli manderò un messaggio. Un giocatore, oltre che un bravissimo giocatore, un bravissimo ragazzo che gioca con me a Napoli, quindi sicuramente mi farà molto piacere incontrarlo. E quindi niente, speriamo che si comporti bene, ecco. No, comunque faccio in bocca al lupo la partita, come è giusto che sia, e se magari possiamo scambiarci la maglietta, vedremo un po', insomma, ecco. E per ora da Johannesburg è tutto, ancora una buona giornata.